Letture di Radio 24. Anche l'uomo di Neanderthal decorava il proprio corpo e i propri abiti. In una grotta delle Prealpi venete ci sarebbe la prova che anche i nostri cugini vissuti tra 40 e 50.000 anni fa utilizzavano decorazioni proprio come i Sapiens. Vivo e ricco di colpi di scena si presenta il dibattito scientifico sull'uomo di Neanderthal, tanto da impegnare fiumi di inchiostro nella bibliografia internazionale e centinaia di studiosi in accorati convegni a discutere della sua biologia, vita sociale, sussistenza e comportamento. Proprio quest'ultimo aspetto segna un picco d'attenzione legato alle cause che hanno portato alla scomparsa dei nostri cugini tra 50 e 40.000 anni fa. Come si rapportavano con l'ambiente e le innumerevoli risorse alimentari e non che questo offriva? Quant'era profondo il grado di conoscenza del territorio in cui si muovevano, degli animali che vi abitavano, dei giacimenti di rocce da scheggiare? Quali sistemi di identificazione adottavano per loro stessi, le proprie famiglie e i membri dei clan, sempre che una qualche struttura sociale ne contemplasse l'esistenza? Gli interrogativi non lasciano dubbi. Identificare tra i Neanderthal comportamenti etnograficamente moderni, cioè più prossimi al modo sapiens di pensare e strutturare la società, porta inevitabilmente ad interrogarsi sulla loro origine. Autoctona oppure frutto del risultato di interazioni con i primi sapiens anatomicamente moderni che colonizzarono l'Europa 41-40.000 anni fa? Se da un lato il confronto con il DNA fossile neandertaliano rivela le tracce di un flusso genico verso i sapiens euroasiatici, dall'altro l'archeologia esclude contatti fra le due forme biologiche, sostenendo piuttosto l'emergenza autonoma di certe invenzioni nella scheggiatura della pietra, la lavorazione dell'osso e, di importanza fondamentale, l'impiego di materiali ad uso ornamentale. Conchiglie marine e canini di volpe ed orso perforati suggeriscono un'attenzione per la decorazione del corpo o per gli abiti, arricchita dall'impiego di polveri coloranti ricavate dalla triturazione di ossidi di ferro e manganese. A rafforzare l'opinione di quanti pensano che i Neanderthal avessero comportamenti astratti molto simili a quelli dei cugini Sapiens anatomicamente moderni, è una recente scoperta archeologica di unicità straordinaria, emersa in seguito a uno studio condotto su resti ossei di uccelli provenienti da uno strato risalente a 44.000 anni fa, nella grotta di Fumane, nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, le Prealpi Venete. Le ricche testimonianze archeologiche conservate nei depositi di riempimento di questa cavità, oggetto di ricerche promosse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e condotte dall'Università di Ferrara, in collaborazione con il Museo Nazionale Preistorico Etnografico Pigorini, rappresentano una precisa documentazione della vita dei Neanderthal e dei primi Sapiens, tanto da registrarne fedelmente la sostituzione biologica e culturale lungo una sequenza stratigrafica scandita dettagliatamente dalle datazioni al radiocarbonio. Grazie al perfetto stato di conservazione delle ossa, sono state riconosciute tracce microscopiche di tagli, effettuati con schegge di pietra su ossa dell'ala come l'omero distale, l'ulna e il carpo metacarpo. La distribuzione dei tagli, a volte intorno ai bottoni di innesto delle penne remiganti, suggerisce il recupero forzato di questi vistosi elementi, oppure di porzioni dell'ala. Le ossa in questione sono riferibili infatti a grandi rapaci, come il gipeto, l'avvoltoio monaco, il falco cuculo e altri uccelli, gracchio alpino e colombaccio, e appartengono a porzioni di scarso interesse alimentare, ma dalle quali il recupero delle penne richiede strumenti da taglio con cui avere ragione della resistenza degli innesti. Va ricordato che i confronti archeologici ed etnografici attestano queste pratiche solo a partire da 15.000 anni fa e nei tempi successivi, fino al Medioevo. L'utilizzo ornamentale delle penne a Fumane esclude eventuali ipotesi di un loro impiego nell'impennaggio di frecce o giavellotti lanciati con il propulsore, in quanto questi strumenti erano di esclusivo appannaggio dei Sapiens. Piuttosto rimanda alla vastissima documentazione etnografica, riferibile all'arte piumaria delle popolazioni primitive attuali e subattuali, connessa alle decorazioni di abiti, oggetti, abitazioni e individui, anche di rango, oppure all'araldica in uso per esempio tra i nativi del Nord America. Inoltre alle penne, di varia forma e colore, si aggiungevano gli artigli, solitamente dell'aquila, i cui resti peraltro non mancano a Fumane. Oltre a retrodatare di decine di migliaia di anni questa pratica nella storia evolutiva umana, sinora considerata appannaggio di società più complesse, queste scoperte contribuiscono a modificare l'immagine di Bruti, che per oltre 100 anni ha ingiustamente accompagnato, nella letteratura scientifica e non, questo nostro stretto parente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Penne di falco e avvoltoio per i cacciatori Neanderthal di Marco Peresani, dalla Stampa di mercoledì 13 aprile. Furti quotidiani in ogni angolo d'Italia e raffiche di arresti. La corsa all'oro rosso, il rame, sta lasciandosi alle spalle un impressionante numero di vittime. Ladruncoli che vanno al massacro, folgorati per ingrassare i profitti dei soliti noti. La catasta s'è già fatta consistente. Da quel groviglio luccicante ricaveranno una manciata di euro una volta tornati a Sesto Calende, dove risiedono entrambi. Chissà se il ragazzo, un sedicenne, in quel momento ha occhi per quella matassa di cavi, di fili, di placche strappate via a forza e arrotolate là in terra, oppure per le mani indaffarate di Georg, un mezzo parente, il compagno di quella notte armata di pinze e taglierino, ora alle prese con altre barre rossastre l'intorno. È la notte del 10 febbraio, all'interno di una cabina Enel a un passo da Livorno. E l'uomo e il ragazzo hanno già fatto due conti con l'incasso di quello sporco lavoro, con i 4 soldi che intascheranno a fine scasso, rivendendo in nero l'oro rosso trafugato, quando una scossa avvolge Georg in un lampo, quando una scarica di 15.000 volt lo percorre in un attimo, l'ultimo della sua vita, carbonizzandone il corpo davanti al ragazzo che, atterrito, prende a correre e non smette finché non incrocia una volante e racconta ogni cosa di quella spedizione in Toscana per rubare cave di metallo e della fine orribile di Georg Stanescu, 28 anni, un altro povero morto di rame. Anche Fabrizio Amato, la notte del 24 maggio scorso, non doveva essere solo. Troppe le tracce scovate dagli investigatori su quel terreno fangoso, dalle parti di Pegognaga, nel Mantovano, dove l'hanno trovato a pochi metri da un traliccio dell'alta tensione. Di fianco una scala, un grosso tronchese e 10 metri di cavi di rame divelti. Aveva 27 anni, tirava avanti a espedienti e, secondo il padre che ha dato l'allarme, si deve essere suicidato. Che è quanto i compari di quella notte a caccia d'oro rosso devono avergli raccontato. E che è persino una mezza verità, che provare a tagliare fili da una linea elettrica e mettere in conto di togliersi la vita. Di farla finita in preda a voltaggi che ti scuotono a morte. Sì, pure lui un morto di rame. Un altro cadavere carbonizzato nella folle corsa all'oro dei poveri di cui nessuno parla oggi in Italia. Sono italiani indigenti a bruciarsi la vita e poi romeni o montenegrini di cui nessuno si cura, ma che invece è un mattinale gonfio di furti quotidiani, di continui arresti e sempre più di morti folgorati. Come Innocenzo Restivo, 25 anni, che strappava via cavi di rame da un palo della luce sul lungomare di Marsala. Come David Cosmin Constantin, romeno, che di anni ne aveva 19 e che voleva rubare matasse d'oro rosso lungo la linea dell'alta velocità nei pressi di Torino. Come Davide Narcisi, ucciso da una scossa ad alto voltaggio a Giarre, o il giovane montenegrino che il 25 febbraio è rimasto fulminato mentre trafugava rame a Roma. La stessa fine, lo scorso anno, di PG, 32 anni, a Sezze, di Giuseppe Zuccalà, 35 anni, a Lurate Cavicchio, e di Bogdan Munteanu, 22 anni, rimasto folgorato da una scarica da 15.000 volt a Bolzaneto in ottobre. Croci di rame piantate sul terreno di questa corsa all'oro rosso, palestra per disperati che provano a sbarcare il lunario, che ogni giorno provoca blackout alle centraline o alle linee ferroviarie, ma anche furti di pluviali e persino di targhe e vasi nei cimiteri, come è accaduto nell'ultimo mese a San Giuliano e ad Arese, per restare nell'area milanese. Ladri da 4 soldi che sono l'ultimo anello, il più debole, di un affare che vale milioni di euro. Ferri vecchi mandati al macello lungo le linee dell'alta tensione, ma in grado di fare ingrassare i profitti di chi non va tanto per il sottile, come i titolari di quell'azienda di Bologna arrestati a marzo nell'operazione Recycling Copper, che avrebbero comprato metallo in gran parte rubato per 10 milioni di euro, ricavandone 15 dalla vendita. Perché, anche se pochi lo sanno, il mondo sta vivendo una sorta di nuova età del rame, volato sui mercati asiatici. La Cina è il paese che ne fa più uso, a $10,000 la tonnellata. Con un aumento del valore a London Metal Exchange, la borsa europea dei metalli, del 60% dal giugno scorso e del 260% in 2 anni al COMEX di New York, prezzo deciso dal singolo trader che, secondo il Wall Street Journal, possiede l'85% del rame depositato nei magazzini londinesi e che gli analisti indicano nella banca d'affari JP Morgan. Grandi numeri, grande finanza, grandi mercati. Ma alla fine della fiera, delle borse e in fondo alla filiera, folgorati sull'ultima Desolation Row del pianeta, ci sono anche loro, quei poveri morti di rame per fame, che nell'Italia dei Bunga Libia non fanno notizia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Quei morti di rame a caccia di oro rosso, di Cesare Fiumi, da 7 di giovedì 7 aprile.